Rassegna Stampa Europa. Buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa europea. Inevitabile, come immaginerete, parlare ancora di Grecia, perché le elezioni sono passate ormai quasi 2 settimane dalle elezioni anticipate della Grecia, ma sappiamo qual è il governo, non sappiamo ancora quale sarà l'accordo tra questo nuovo governo guidato da Alexis Tsipras, la che guida il partito vincitore delle europee Syriza, delle elezioni scusate Syriza, e la troica europea, questa sì per davvero, o meglio la troica che è formata, come sappiamo, dal Fondo Monetario Internazionale, dalla Commissione Europea e dalla Banca Centrale Europea. E allora vediamo per esempio Icati Merini, che questa settimana, 2 giorni fa giovedì, ha proprio pubblicato un articolo intitolato Scontro frontale con Berlino, perché l'accordo si sta cercando, ma è un accordo difficile, come tutti sapevano, un accordo in salita, soprattutto a causa della posizione della Germania, che sapete ha ribadito tantissime volte: non vogliamo che la Grecia esca dall'euro, men che meno vogliamo che esca dall'Unione Europea, ma gli impegni vanno rispettati. E quindi scrive Icati Merini: mentre i nuovi dirigenti greci proseguono il loro tour europeo alla ricerca di sostegni per il programma anti-austerity e per ridurre la pressione finanziaria sul loro paese, il governo tedesco ha inviato ai partner dell'Eurogruppo una lettera nella quale afferma che c'è bisogno di un impegno fermo e chiaro della Grecia sull'applicazione piena delle riforme necessarie per mantenere sui binari il programma di aiuti europei. Ora il punto un po' su tutto questo, al di là il ministro dell'economia andare in giro per i governi, è venuto anche in Italia, però al di là di questo tour appunto europeo, probabilmente dei primi risultati si vedranno nel vertice Ecofin che è in programma per il 12 febbraio. Vi segnalo sempre sulla Grecia la copertina dell'Economist di settimana scorsa, era intitolata Go Ahead Angela, Make My Day. In italiano questa frase non ci suona tanto, perché noi in realtà l'abbiamo tradotta con Coraggio, fatti ammazzare, è una frase molto famosa di Clint Eastwood, dell'ispettore Callaghan in realtà, interpretato da Clint Eastwood molti anni fa, quando ancora non faceva il regista ma solo l'attore. Naturalmente il senso è che per il settimanale britannico questa vittoria di Syriza è un'occasione per la Grecia di rinegoziare il debito, naturalmente a condizione di riuscire a convincere Tsipras a rinunciare a quello che l'Economist definisce il suo folle socialismo. Sapete che Tsipras ha promesso, e probabilmente in buona fede concediamogliela, spera davvero di mantenere ai suoi concittadini una serie di cose, appunto l'Economist definisce un po' così, anche se vogliamo sbrigativamente, folle socialismo. Sono dei provvedimenti che riguardano i salari minimi, l'assistenza sanitaria, l'assistenza alle persone sotto la soglia di povertà, che naturalmente costano, e se a questi costi aggiuntivi si aggiungono i costi che la Grecia deve già mettere in conto per ripianare i suoi debiti, si arriva appunto a cifre non impossibili da mantenere, e da qui la necessità della famosa rinegoziazione. Tra l'altro questa copertina ha fatto molto arrabbiare tanti greci, perché la copertina, oltre a questo titolo appunto Forza Go Ahead Angela Make My Day, cioè Coraggio fatti ammazzare, nel film del 1983, che poi letteralmente sarebbe meglio tradurre con Coraggio Angela dai un senso alla mia giornata. Sapete che a volte nel tradurre i titoli dei film dall'inglese in italiano vengono fuori delle cose un po' strane, questo succedeva nell'83 ma succede ancora oggi. E comunque insomma questa copertina è stata molto molto molto criticata, e il ministro delle finanze appunto di cui abbiamo parlato, che si chiama Yanis Varoufakis, ha commentato che è una copertina assolutamente offensiva e ridicola, ed è offensivo e ridicolo suggerire con questa copertina e con il contenuto dell'articolo che la Grecia possa ricattare l'Europa. Comunque questo articolo dell'Economist è stato poi messo sul sito non a pagamento, sapete che molta parte degli articoli dell'Economist o si leggono sull'edizione cartacea o si leggono online ma a pagamento, questo era invece libero ed è stato uno dei più commentati e dei più letti. Per quanto riguarda i giornali così tedeschi, la settimana scorsa abbiamo visto le prime reazioni, potete immaginare anche questa settimana sono stati molto duri i commenti ai primi esiti di questi colloqui di Tsipras, e quindi preferisco questa settimana, per cambiare un po', citare invece i commenti sull'elezione del nostro nuovo Presidente della Repubblica che c'è stata sabato scorso. La Frankfurt Allgemeine Zeitung per esempio ha titolato: con il trionfo di Renzi lo smacco di Berlusconi. È una lettura sicuramente non particolare, particolarmente originale. Un po' tutti hanno letto questa elezione di Mattarella come una vittoria politica di Renzi e sicuramente una sconfitta di Berlusconi. La Frankfurt Allgemeine Zeitung traccia per i lettori tedeschi che conoscono ancora meno degli italiani la figura di Mattarella, traccia la figura di questo che viene definito un servitore dello Stato, e spiega anche che sicuramente potrà dare anche un contributo sulle questioni europee, sulle tante questioni europee sul tavolo. La Süddeutsche Zeitung, che è un quotidiano un pochino più spostato a sinistra rispetto alla Frankfurt Allgemeine Zeitung, lo definisce un uomo di poche parole. Poi, per quanto riguarda Renzi, si dice che è il vincitore e il trionfatore. Ma veniamo al Financial Times, che si occupa invece di un'altra di Italia, di regole europee, e in particolare di una regola che Matteo Renzi vorrebbe far passare in Italia e che però è diversa da molte di quelle che vigono in Europa. E da qui appunto Financial Times scrive che alcuni dei maggiori investitori istituzionali e consiglieri indipendenti hanno inviato una lettera al Premier Renzi per chiedere la revoca delle disposizioni sul voto multiplo per le società quotate in borsa. E appunto sarebbe un'eccezione della normativa italiana rispetto per esempio a quella in vigore in Francia o in Inghilterra, e Financial Times si auspica, citando anche questa lettera, che appunto ci sia una marcia indietro su questo progetto del governo Renzi. I firmatari, scrive Financial Times, citando proprio l'esempio della Francia, sostengono che questo tipo di azioni tende a favorire gli azionisti di controllo, mentre idealmente dovrebbe essere qualcosa che favorisce i piccoli azionisti. Vedremo insomma come andrà a finire. Cambiamo completamente argomento, anche perché la Grecia ha un po' monopolizzato tutte le discussioni politiche e economiche, ma c'era stato un altro grande sconvolgimento finanziario poco prima delle elezioni in Grecia. Il 15 gennaio, molti di voi lo ricorderanno, la Banca Centrale Svizzera, la Banca Nazionale Svizzera, aveva deciso di sganciare il franco dall'euro, quindi libero franco in libero euro, e questo ha subito portato a un apprezzamento incredibile del franco, che ha preoccupato molto le aziende in Svizzera, quindi soprattutto i settori farmaceutici, orologero e alcuni settori della moda che esportano molto. Ma è interessante come New York Times, Gazeta Wyborcza, che è un quotidiano polacco, si concentrino sul fatto che l'impennata del franco svizzero fa decollare i mutui. E questo articolo, ci tengo sempre a dirlo, ve lo posso citare grazie all'opera di PressEurope.eu, quel sito che sapete io amo molto, che appunto fa un lavoro meritorio di rassegna stampa europea, un po' come il nostro, e loro spaziano anche su argomenti che magari non riguardano strettamente le istituzioni europee, ma i paesi comunque della nostra Europa. Allora, vi dicevo, il quotidiano polacco, la Gazeta Wyborcza, fa notare come l'abbandono del cambio fisso del franco svizzero, deciso come dicevamo il 15 gennaio, ha messo in difficoltà anche la Polonia, perché in seguito a questa decisione il franco svizzero è decollato e in poche ore il tasso è passato da 3,5 a 5,2 zloty, che è la moneta polacca. Per darvi un'idea, l'euro vale circa 4,2 zloty, perché la Polonia non è nell'eurozona ovviamente. Il quotidiano osserva che in questo momento si mantiene a 4,3, e quindi le rate mensili di chi ha un credito immobiliare in franchi svizzeri e sono molti in Polonia sono aumentate in modo inaspettato. Pensate per esempio che per una rata mensile di 500 euro, in equivalente in euro, si è passati in pochi giorni a 570. E il New York Times torna curiosamente su questa stessa questione, cioè sul fatto che in Polonia molte persone abbiano un mutuo in franchi svizzeri, e spiega che erano quasi un terzo dei mutui totali in Polonia nel 2013, e da qui naturalmente tutte queste conseguenze negative dovute alla decisione della Banca Nazionale Svizzera. Vi segnalo un ultimo articolo, questa volta di nuovo dalla Frankfurt Allgemeine Zeitung, che ha cercato di capire cosa pensano i cittadini europei delle corti arbitrali europee. E la Commissione europea negli ultimi anni ha ricevuto quasi 150.000 risposte per esempio sulla consultazione pubblica, che è quel meccanismo di risoluzione dei contenziosi tra investitori e stati, che è contenuto in un altro gigantesco accordo quadro, che è il cosiddetto TTIP, il partenariato transatlantico per il commercio e l'investimento. Quasi nessuna, scrive la Frankfurter Allgemeine Zeitung, era a favore della ISDS, cioè di questo meccanismo di risoluzione dei contenziosi. Il meccanismo prevede che le imprese che si sentono lese da politiche pubbliche di uno Stato possano ricorrere a un tribunale arbitrale le cui decisioni sono inappellabili anziché alle giurisdizioni statali. E come sempre in questi casi, da una parte c'è il beneficio di avere una decisione più rapida ricorrendo a un arbitrato, ma non si può fare appello. Ultimissima segnalazione, ancora 10 secondi, la copertina di Time, che è dedicata alla questione del petrolio, ma all'interno un lungo articolo su Boris Johnson, il sindaco di Londra, che probabilmente sarà il prossimo premier britannico. Le elezioni si terranno politiche il 7 di maggio e qui si parla di Europa, perché secondo il Time Boris Johnson non vuole la Brexit, cioè l'uscita della Gran Bretagna dall'euro, così come nessuno voleva pare la Grexit, che infatti finora non c'è stata. Era l'ultima segnalazione, ancora un buon sabato da Giulia Crivelli. Rassegna Stampa Europa, in collaborazione con Euronet Plus.